attivo della solidarietà con la popolazione palestinese a cambiare un po' il corso della mia vita, e quindi sto cercando un modo di prendere parola dove possibile in un momento difficilissimo per farlo, perché il 7 ottobre è una censura storica fondamentale e stiamo assistendo a una situazione assolutamente senza precedente. Anche per noi che ci occupiamo di Palestina da tanti tanti anni, è veramente una situazione senza precedente. E io premetto che tutti quanti noi, tutte quante noi che ci occupiamo, siamo ovviamente ai limiti dell'esaurimento in questo periodo, quindi scusatemi se non sarò brillantissima, cercherò di darvi qualche aggiornamento da casa per quello, per le notizie che abbiamo adesso, e poi mi farebbe piacere lasciare la mente aperta a queste domande o interventi, dibattiti. Credo che questo sia un momento fondamentale per confrontarci e per rispondere a vostre eventuali domande, anche alla luce del lavoro catastrofico che sta facendo il sistema mediatico italiano in particolare, ma diciamo internazionale in generale. Allora, qual è la situazione in questo momento a Gaza? Io stavo in una conferenza stampa delle organizzazioni della società civile palestinese proprio in questi minuti. Abbiamo ovviamente superato le 2.750 vittime civili di 2.500 bambini, abbiamo 12.500 persone ferite, 142.000 case distrutte che rappresentano il 30% degli edifici della striscia di Gaza, tra queste oltre 300 scuole, un intero complesso universitario e 59 strutture sanitarie. Già da diversi giorni, i giornalisti palestinesi che sono sul campo ci stanno dando aggiornamenti allucinanti rispetto al fatto che non ci sia più posto, per esempio, per seppellire i cadaveri. In questo momento sono conservati nei camion dei gelati. Le persone stanno iniziando a morire di sete e ormai da diversi giorni nelle famiglie si è attivata la politica del children first, quindi se si trova un pezzo di pane si è attivato. Questo per quanto riguarda Gaza. Il valico di Rafah, che è, come sapete, l'unica via d'uscita che avrebbero i palestinesi, che è stato ripetutamente bombardato dalla aviazione israeliana in questi giorni, resta chiuso, ed è notizia di un'ora fa che una manifestazione di egiziani si sia recata al valico e stia cercando di forzarlo per fare entrare aiuti umanitari. Aiuti umanitari che non entrano da quando è iniziata l'offensiva israeliana, che significa che non ci sono medicine, che non c'è cibo, che non c'è energia elettrica se non a tratti, che l'acqua che si beve ormai è inquinata, che gli ospedali stanno operando senza medicinali e senza acqua pulita. E questo è un po' la situazione a cui stiamo assistendo, che ci fa parlare senza rischio di smentita o di essere considerati dei pericolosi sostenitori di Hamas e di genocidio in corso, questo tentativo di sterminio, e non c'è un altro modo per definirlo, non lo dico solo io, lo dicono ormai anche l'organizzazione israeliana, dice la stampa israeliana, che si sta comportando in modo estremamente più coraggioso di noi, con insomma articoli che stanno mettendo in discussione le politiche del governo. Nel frattempo in Cisgiordania, quindi nei territori della Palestina occupata, controllata, come sapete, dall'ANP da Abu Mazen, siamo a 80 vittime civili, arresti di massa, e diciamo si stanno organizzando delle manifestazioni di sostegno alla popolazione di Gaza. Oggi è venerdì, è stato dichiarato venerdì della rabbia, come si può vedere, abbiamo spesso organizzato in queste giornate momenti di manifestazione di solidarietà. Non stiamo ancora vedendo nella Cisgiordania occupata grandissime masse, e probabilmente perché c'è un timore diffuso dello stesso trattamento che stanno osservando a casa venga poi dedicato al tempo. Che cosa è importante sottolineare? Io non so quanto conoscete, quanto siete esperti della questione palestinese, però due o tre dati di contesto, giusto per decostruire la narrazione mediatica che stanno facendo. Da quello che vediamo in televisione o leggiamo sui giornali potrebbe sembrare che la striscia di Gaza sia stata cinta d'assedio all'indomani del 7 ottobre. La striscia di Gaza è assediata dal 2006, fanno più o meno, se non mi sbaglio, 16-17 anni di assedio. Assedio totale, quindi, con Israele che controlla tutte le frontiere di Gaza, sia quelle terrestri che quelle marittime che i cieli. si entra e si esce da Gaza con, in rarissime occasioni, con permessi rilasciati dalle autorità israeliane con il portavoce, il che significa che c'è una generazione di adolescenti che non è mai uscita da Gaza, non ha mai visto. Allo stesso modo Gaza non è stata bombardata soltanto adesso, ma è stata bombardata negli ultimi anni almeno 5 volte in grandissime offensive. Per darvi una misura, una di quelle che noi consideriamo le peggiori, quindi più diffuso nel 2008, fece 1.500 vittime civili in 22 giorni di bombardamenti, oggi come vedete siamo quasi 4.000 in circa 10. Questo è un po' quello che è successo a Gaza, dove, come sapete, l'assedio è iniziato dopo la presa del potere da parte di Hamas, che è bene essere precisi, è un partito politico che ha vinto regolari elezioni nel 2006, sconfiggendo la controparte palestinese di al-Fatah, che viene invece da palestinese. È un partito politico che ha un braccio armato, le brigate di al-Qassam, che sono quelle che hanno guidato la parte del settore. In seguito alle elezioni del 2006, che non vengono riconosciute dalla comunità internazionale, si sviluppa uno scontro intrapalestinese tra le due principali fazioni e di fatto il potere politico viene diviso in due. Quindi Hamas prende di fatto il controllo della striscia, mentre al-Fatah, attraverso l'ANP, continua a esercitare il potere nella striscia, nella Cisgiordania. In generale, che cosa succede in Palestina tra il 2022 e il 2023? Il 2022 è considerato dagli osservatori internazionali come l'anno più sanguinoso della seconda intifada. È un anno terribile sia per Gaza che per i territori occupati, in cui si stima che ci siano stati più o meno 3 attacchi di coloni al giorno. I coloni, sempre per essere precisi, sono una popolazione che adesso nei territori palestinesi ammonta circa 750.000 persone, sono civili ma sono armati, compiono indisturbatamente attacchi contro la popolazione civile palestinese e per i pochi provino della cultura stampa israeliana, del tutto indisturbati quando non supportati e protetti dall'esercito israeliano, e la loro presenza è contraria al diritto internazionale in territorio occupato. Quindi, il 2022 ha rappresentato un po' l'apice di questo processo di colonizzazione illegale. Si diceva all'inizio, io non parlo di conflitto, perché il conflitto è una parola fuorviante, un termine che potrebbe lasciar pensare a due parti contrapposte che si scontrano a pari livello, con pari armi, pari capacità di potenza. Non è così, perché quello a cui noi assistiamo in Palestina è un unico storico. È un processo di colonialismo di insediamento che ha quindi come obiettivo la conquista di maggior territorio possibile con meno popolazione nativa possibile. Quindi l'obiettivo del colonialismo di insediamento è far spostare, eliminare, fare fuori la popolazione palestinese nativa. È un processo di colonialismo che si avvia già alla fine dell'Ottocento, ci accompagna di tutto il Novecento e fino ai giorni nostri, che utilizza una serie di sistemi, tra cui l'occupazione militare in Cisgiordania e l'assedio militare sulla striscia di Gaza, e che ha istituito, per meglio funzionare, un vero e proprio sistema di apartheid. Quindi, quando parliamo di quel contesto, dobbiamo tenere a mente di che cosa stiamo parlando, altrimenti facciamo come hanno fatto i nostri commentatori sui giornali, che si sono svegliati la mattina del 7 ottobre e hanno ricordato che esiste la Palestina e che esiste un sistema di oppressione sistemico che, ripeto, rappresenta un unico nella storia e che è l'unico ancora esistente. Il problema qual è stato? Che la comunità internazionale, l'opinione pubblica mondiale, i media, hanno pensato che questo sistema di egemonia subalternità potesse durare indisturbato per sempre. Hanno pensato che i subalterni sarebbero rimasti subalterni per sempre e non si sarebbero ribellati mai a questo livello di oppressione. In realtà la popolazione palestinese nel corso della storia ci ha provato diverse volte. Basti pensare alle due pagine più importanti della resistenza palestinese, che sono le due intifadi. La prima negli anni 80, assolutamente popolare e di massa, la seconda, in seguito agli accordi di Oslo di primi anni 2000, che invece è stata più caratterizzata da un approccio prettamente militare, in cui la massa ha avuto una predominanza e in cui si è fatto ricorso anche allo strumento degli attentati suicidi e quindi dei crimini di guerra. Ma ci sono state anche tanti anni di resistenza e di lotta non violenta. Penso per esempio ai comitati popolari di lotta non violenta, che hanno portato avanti una resistenza coraggiosissima per oltre 10 anni nei villaggi palestinesi interessati dalla confisca delle terre per la costruzione del muro da parte. Ma penso anche a Gaza e alla grande marcia per il ritorno, che è stata una pagina abbastanza straordinaria di manifestazioni giovanili e popolari che è durata più o meno dal 2018 al 2020, in cui la gente ha cercato di manifestare ogni venerdì in modo non violento, arrivando fino a quella barriera che il 7 ottobre abbiamo visto abbattere da una ruspa, ed è costata però un prezzo altissimo in termini di vite umane palestinesi, perché è stata ferocemente aggressa nel sangue. Ora, alla luce di uno scenario così complesso, potete immaginare che l'azione del 7 ottobre è stata qualcosa che ha sconvolto la popolazione palestinese, non solo, e poi noi teniamo sempre un punto di vista privilegiato neanche occidentale, ma c'è tutto il mondo verso da noi, il sud globale, cioè ovviamente il mondo arabo in generale, che ha guardato quell'azione, soprattutto alla prima fase, in cui ancora non erano emerse le notizie degli attacchi contro la popolazione civile israeliana. Quando è iniziato a circolare la foto, i video di questa ruspa che buttava giù il muro di difesa, insomma, non si può chiamare il muro in quel caso, ma insomma, la barriera di separazione che tiene imprigionata Gaza, è stato un momento abbastanza epico per la popolazione palestinese, perché, come hanno scritto tante persone palestinesi attraverso i social, è stata la prima volta che da Gaza si poteva entrare e uscire in tutte e due le direzioni, quindi è stato un atto di grande liberazione. Evidentemente poi le brigate di Marco Al-Qassam hanno tutte le azioni che si potranno configurare probabilmente dopo attente analisi di organismi internazionali di crimini di guerra, perché sostanzialmente non hanno fatto distinzione tra la popolazione in armi, diciamo gli eserciti militari e la popolazione civile. Un ulteriore elemento di complessità che mi taccio, vi lascio le vostre domande, è proprio la difficoltà di verificare le notizie in questo momento. Questo lo dico da giornalista che non è sul campo, e come non sono sul campo io, non è sul campo nessuno della stampa internazionale. Essere a Sderot in questo momento a Gerusalemme o a Tel Aviv non vuol dire essere a casa, vuol dire essere più vicino a quello che sta succedendo, ma vuol dire essere dove le cose stanno succedendo. E quindi vuol dire avere enormi difficoltà a verificare le notizie. Pensate, non so se avete seguito, alla notizia del bombardamento dell'ospedale, in cui c'è un rimpallo di responsabilità tra le brigate Al-Qassam e l'esercito israeliano. Quella è una notizia su cui ci dobbiamo necessariamente prendere il tempo di fare delle indagini. Dobbiamo tenere a mente il contesto, cioè il fatto che una parte, in questo caso Israele, abbia più volte colpito strutture sanitarie, quindi non sia un tabù per lui farlo, e quell'ospedale abbia ricevuto degli avvertimenti, ma noi ad oggi, non essendo sul campo, dobbiamo necessariamente fare ricorso alle fonti locali. E le fonti locali in questo momento vanno verificate. Non avere accesso a un stampa internazionale vuol dire non poter fare un buon lavoro di diffusione delle informazioni, vuol dire anche lasciare aperto il campo all'opinione, non è fatto. E purtroppo quello a cui stiamo assistendo è questo. Ed è uno spostamento di senso quello che sta portando avanti in qualche modo il sistema mediatico, soprattutto italiano, che è veramente molto grave. Voi siete troppo giovani, non potete ricordarlo, ma è già successo nel 2001. Nel 2001, all'indomani degli attentati alle Torri Gemelle e quindi dell'emergere, diciamo, della compagine jihadista di Istanbul mondiale, il governo israeliano, le autorità israeliane riuscirono a, in qualche modo, veicolare il messaggio che quello che stava succedendo in Palestina, cioè la seconda intifada, fosse una declinazione locale del jihad talebano. Quanto più lontano dalla realtà, perché quello che stava succedendo in Palestina aveva a che fare con la Palestina, aveva a che fare con un movimento di liberazione nazionale all'interno di un sistema coloniale che utilizzava pratiche più o meno condivisibili, ma insomma non stanno noi assolutamente a giudicarle, né dobbiamo soltanto analizzarle, che nulla avevano a che fare con la spinta jihadista del mondo. Purtroppo questa cosa sta avvenendo nuovamente, perché avete notato che quello che sta facendo insomma, il sistema mediatico è spingere su questa sovrapposizione tra Hamas e ISIS. E questo è pericolosissimo, perché contribuisce a quella deumanizzazione del popolo palestinese che noi già stiamo vedendo in atto da tantissimi anni. Il fatto che le autorità israeliane si rivolgano alla popolazione di Gaza come animali umani ne è un esempio abbastanza rilevante. E purtroppo quello che succede quando poi viene diffusa la paura e immediatamente sono iniziate le notizie che generano panico sulla paura in Europa, sull'Europa di nuovo a rischio attentati, sulla chiusura delle frontiere, che poi quel tipo di comunicazione agevola anche le politiche securitarie che poi ci riguardano molto, molto direttamente. Beh, è estremamente pericoloso perché diventa molto, molto, molto difficile far sviluppare un meccanismo di produzione empatica nei confronti di una popolazione che in questo momento sta subendo un tentativo di genocidio. Mentre ci è facilisti empatizzare con vittime che ci somigliano di più, come quelle israeliane, perché sono bianche, perché sono più vicine agli standard occidentali, perché conducono una vita molto più simile alla nostra. I ragazzi del rave avevano la possibilità di andare a un rave, non sono ragazzi palestinesi di casa perché ormai non c'è un rave, perché vive in una gabbia. E questo secondo me ci deve molto interrogare su come poi il meccanismo della solidarietà sia, almeno nei nostri contesti, un meccanismo di solidarietà tra privilegiati, tra dominanti, tra germani, tra bianchi, perché poi questo è un po' quello che secondo me bisognerebbe avere il coraggio di dire, che non vuol dire non empatizzare verso le perdite delle famiglie israeliane, non vuol dire non riconoscere i crimini di guerra che vengono commessi, però vuol dire riconoscere che noi abbiamo un enorme lavoro di decolonizzazione del nostro sguardo da fare, ma proprio grande. E ce l'abbiamo noi come opinione pubblica, ce l'avrebbero i giornalisti, io sto sentendo dire delle cose agghiaccianti in questi giorni, costretta a seguire gli approfondimenti televisivi per capire a che livello siamo, e purtroppo siamo a un livello abbastanza drammatico in cui si può dire tranquillamente che se noi abitassimo quel pezzo di mondo noi saremmo israeliani, perché noi siamo occidentali. Il che in parte è anche vero, nel senso che Israele in questo senso risponde a un meccanismo di colonialismo assolutamente occidentale, si inscrive in quel solco. Però ecco, sono tutti elementi che dovremmo considerare, perché altrimenti rischiamo avere delle reazioni che rivelano un razzismo abbastanza improiettato rispetto a quel pezzo di mondo, e quindi il fatto che concediamo il monopolio del dolore e anche la legittimità dell'uso della forza soltanto una parte, che è ovviamente quella che più ci si avvicina. Io mi fermerei qui, nel senso che l'unica cosa che personalmente sto cercando di fare nel mio piccolo per provare a ricostruire questa narrazione, lavorando però all'interno diciamo del sistema del giornalismo indipendente, quindi non raggiungendo quelle masse e non con quella potenza di fuoco, se pensate il termine, è intanto tornare sempre al contesto, cioè un modo per aiutare la comprensione, appunto, e contestualizzare quello che sta succedendo e non pensare alla storia senza pensare. E dall'altro cercare in tutti i modi di amplificare le voci di chi questa voce non ce l'ha, perché è veramente molto difficile che voi sentiate parlare in questo momento la popolazione palestinese, o che ci siano ospiti palestinesi in questi momenti visibili, o che il loro punto di vista ce l'abbiano. Per fortuna abbiamo i social network che ci stanno fornendo la possibilità di vedere in diretta quello che succede, grazie al lavoro, ripeto, di straordinari corrispondenti, uomini e donne, che stanno facendo un lavoro preziosissimo di informazione. Qui naturalmente dobbiamo verificare, perché si tratta di una situazione conflittuale, e quindi dobbiamo avere l'onestà intellettuale di guardare a quelle fonti in maniera razionale e non emotiva, nonostante un livello di esposizione alla violenza che stiamo subendo indirettamente anche noi, senza precedenti, perché veramente lo dico senza timore di sembrare emotiva, io non ho mai visto scene del genere, non ho mai visto una situazione del genere in quasi 20 anni, e quindi questo è estremamente difficile da gestire, molto difficile bilanciare tra la capacità di rimanere lucidi e l'umana empatia che è necessario trovare in questi contesti. Però essere consapevoli di tutti questi puntini, io credo che possa fornirci una bussola per orientarci in questa società. Domande, magari farle voce alta o si avvicina al microfono. Sì, se non è troppo lunga la ripeto io. Ok, sì. Grazie mille Cecilia, sono Carlotta del Progetto Palestina, hai fatto secondo me un quadro lucidissimo della situazione e anche del contesto e hai fatto dei ragionamenti che condivido appieno, quindi ti voglio ringraziare dell'intervento, è stato molto bello. Okay. Magari se faccio domande tutte insieme dopo sì. Puoi rispondere anche. Ah, hai una domanda? No, la domanda è come potremmo noi, oltre a manifestare come individui, cercare appunto di aiutare per la questione della Palestina, perché è giusto protestare e manifestare e boicottare anche, ad esempio, prendo questo da stream o altri che supportano la Palestina, ma si potrebbe fare anche di più. Quali potrebbero essere i migliori metodi per aiutare la Palestina dal nostro punto privilegiato che siamo in Italia? Hai sentito, Cecilia? Sì, ho sentito, volete raccogliere qualcun altro e... Sì, mi sembra che abbia capito. Cecilia diceva, se tu puoi fermarti e resti collegata, dicevano di proseguire con la seconda parte e poi magari di fare tutto insieme dopo. Se tu invece devi andare via, magari ti fanno le domande adesso. No, un po' posso restare. Sì, sì. Allora, l'introduzione di Cecilia sarà veramente esaustiva, ha toccato tutti i punti che doveva toccare e quindi mi ricollego molto bene, ora che avete un quadro generale fatto molto bene. E, noi come Progetto Palestina ci sembra doveroso in questo momento inquadrarci, come ci posizioniamo in questa situazione e dirvelo. E in questi giorni ci sono state fatte tante domande e anche noi ce le siamo fatte tante, abbiamo cercato di darci delle risposte. Le domande più frequenti erano appunto cosa è successo il 7 ottobre, perché è successo il 7 ottobre e come ti posizioni rispetto alla Hamas. Le risposte ci sono venute naturali nel momento che non è che ci siamo svegliati il 7 ottobre e abbiamo iniziato in Palestina. E siamo perfettamente consapevoli che in Palestina c'è un colonizzato e un colonizzatore e la questione inizia e finisce lì. La cosa più difficile è comunicare questo discorso che per noi si racchiude in questa cosa così semplice a un mondo, come diceva anche Cecilia, bianco, islamofobo profondamente, razzista, eurocentrico e per niente decostruito rispetto allo schifo di colonizzazione che ha fatto. E abbiamo riscontrato come nei media questo era quello che usciva. E, ma chiunque sia familiare con la storia della Palestina, con quanto succede in Palestina, e quando ha letto nei giornali la mattina del 7 ottobre Israele ha il diritto di difendersi, gli sempre ha gelato il sangue nelle vene nel momento che quel diritto da quello stesso giornale che dall'Occidente non è mai stato riconosciuto alla Palestina, o almeno non viene riconosciuto. E, perché comunque quello che è successo il 7 ottobre per noi è una risposta. È una risposta a 75 anni di colonialismo, è una risposta a quasi 17 anni per il popolo gazawo all'interno di una prigione a cielo aperto, fondamentalmente. E per questo motivo, quando ci siamo svegliati con quelle immagini, la mattina del 7 ottobre, con un bulldozer che andava contro e distruggeva quel muro di filo spinato che rinchiudeva 2 milioni e mezzo di persone in una cazzo di prigione a cielo aperto, e lì in quel momento la gente poteva entrare e uscire dopo quasi 17 anni, lì secondo te, cioè, vedi veramente la decolonizzazione che sta accadendo. Quello è un momento storico, te lo ricordi per questo. E questo non è riconosciuto. Cioè, non è riconosciuto che quel momento lì è un inizio per una decolonizzazione. Una decolonizzazione che non va bene, però, a una certa parte di mondo, l'Occidente, che non la riconosce in quelle forme lì. Cioè, l'Occidente deve insegnare al colonizzato come decolonizzarsi quando è lui che lo colonizza. È un po' complicato. E vabbè, comunque scusatemi la digressione. E mi riattacco dicendo che è immediata quindi la nostra risposta alla domanda cosa è successo, perché la resistenza palestinese ha mostrato che l'esercito più potente e finanziato al mondo aveva delle debolezze, e anche che comunque le persone stanno un po' di merda, perché comunque a Gaza non c'è acqua potabile, l'acqua è per il 95% contaminata e hanno un embargo totale, cioè comunque per il 70% della popolazione gazawa non sono, cioè sono stati trasferiti in modo coatto, deportati dalla West Bank o da quello che oggi è Israele, cosiddetto Israele, che sono stati deportati a Gaza. E detto questo, se non fosse successo ora, sarebbe sicuramente successo prima o poi. Se non il 7 di ottobre, prima o dopo sarebbe successo. E quindi è molto difficile far capire però a questo punto come rispondere alla domanda come ci posizioniamo rispetto a Hamas, perché è mal posta proprio la domanda. Perché intanto non si parla solamente di Hamas, ma la resistenza palestinese è fatta da molti gruppi di resistenza. Ci sono gruppi di resistenza atei, marxisti, ci sono gruppi di resistenza... ci sono una miriade di gruppi di resistenza. In questo momento le brigate al-Qassam sono il braccio armato del gruppo di Hamas, che comunque fa parte della resistenza. Quindi non è un come ti posizioni rispetto a Hamas. Ti stai appoggiando una resistenza, non stai appoggiando un gruppo. E quindi niente, questo è un po' come ci posizioniamo rispetto alle tre domande che ci sono uscite di più in queste settimane. E E niente, passo la parola a Olivia, che... Grazie. Di nuovo anch'io ci tengo a ringraziare Cecilia e Carlotta. Insieme, diciamo, appunto, quello che ci siamo trovati, come diceva Carlotta prima, a rispondere ogni giorno è proprio il fatto di capire che noi non ci siamo svegliati il 7 ottobre, abbiamo iniziato a parlare di Palestina, ma che senza contesto, contesto che è stato ben descritto, era molto difficile, se non, come dire, fuorviante quello che veniva raccontato rispetto a questi giorni. Quindi anche per questo ci abbiamo tenuto, come dire, anche a fornirvi un po' quella che è stato il nostro ragionamento e i nostri ragionamenti che ci hanno portato anche a organizzare diverse piazze, diverse mobilitazioni in favore della resistenza palestinese. A questo, un po' perché, diciamo, era la prima richiesta che c'era stata fatta prima di questo momento storico del 7 ottobre, e un po' perché per noi è perfettamente funzionale al discorso raccontare un po' che cos'è, quali sono le complicità che toccano noi da vicino, che partono dall'Europa, dall'Italia, da questo stesso Ateneo, e che arrivano a Israele sia a livello di legittimazione politica, che poi chiaramente si traduce in legittimità a livello di panorama internazionale, quello che poi fa sì che le miriade di risoluzioni ONU, le milioni di sanzioni che sono state da sempre millantate nei confronti di Israele, che perde tra apartheid, pulizia etnica, genocidio, non sono mai state poi di fatto applicate. E a maggior ragione in un momento storico come questo, un po' perché cioè, banalmente le armi che gli americani stanno mandando dagli Stati Uniti a Israele partono dalla Sicilia, si appoggiano all'aeroporto di Sigonella, quindi cioè, insomma, delle complicità sono ovunque, quindi è funzionale parlare in questo momento. E un po' sicuramente per il fatto che anche prima veniva posta la domanda: cosa posso fare io per appoggiare e supportare il popolo e la resistenza palestinese? Una risposta è quella di rendersi conto di quali sono tutti gli anellini di collegamento e di complicità che partono da noi e che noi possiamo da qua aiutare a smantellare, per smantellare tutto quello che è appunto la legittimità che sta attorno all'entità sionista e che gli permette sostanzialmente di fare il buono e il cattivo tempo da 75 anni in Palestina, e che poi naturalmente questo sistema di oppressione, come diceva anche Cecilia, è sistemico, chiaramente genererà dei momenti di rivolta, di ribellione e di resistenza che non sono state appiattite, nonostante comunque sia uno degli eserciti più potenti al mondo. Quindi questo un po' anche per contestualizzarvi l'altra parte di discorso che oggi vogliamo fare. Chiaramente, essendo in università, partiamo dalle accademie, non solo perché noi siamo in università, ma anche perché all'interno di Israele stesso le università, le accademie e i sistemi di istruzione sono fondamentali per stabilire quello che è stato definito il complesso militare, industriale, finanziario e accademico, che va a supportare a 360 gradi il regime sionista, l'ideologia sionista e quindi conseguentemente l'occupazione della Palestina e l'embargo su Gaza. Da un lato, a livello storico, l'Accademia e le università israeliane hanno fornito le giustificazioni ideologiche e storiche del sionismo. Vi faccio un esempio, un paio di esempi per capirsi. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare del mito di Israele che ha fatto fiorire il deserto. Si diceva che in Palestina c'era un grosso deserto, non ci abitava nessuno, poi sono arrivati gli israeliani, le prime coloni della Palestina, e hanno fatto fiorire il deserto. Questa è una menzogna, chiaramente c'era, cioè i palestinesi vivevano in Palestina ben prima di loro. A supporto di questo esistono non solo dei trattati che vanno dal trattato storico al trattato ecologico, di biologia, ma anche all'arte. Ci sono dei dipinti che dipingono la Palestina prima delle prime aliyah, delle prime colonizzazioni israeliane, o di quello che poi è diventato Israele, in cui sono stati cancellati i villaggi palestinesi esistenti. Voi immaginate un dipinto storico, io prendo, cancello i villaggi e dico: guarda qua non ci abitava nessuno, questo è un dipinto storico e palese. Questo lo fa un'accademia d'arte in Israele, così per fare un esempio. Dall'altra parte c'è tutta quel sistema di giustificazioni a posteriori che dicevo prima, per cui il fatto che tutte le università israeliane vantino collaborazioni con quelli che sono gli atenei italiani, europei, americani prestigiosi, tra virgolette, chiaramente fornisce non solo una legittimazione dell'entità sionista stessa, perché poi quando si parla di boicottaggio non si parla mai di boicottaggio verso un singolo, un professore, uno studente, una professoressa, si parla di boicottaggio a un ente statale che è quello israeliano, che quindi in quel contesto rappresenta l'occupazione e la violenza sionista. In questo senso avere dei rapporti tra un'università qua e un'università in Israele gli fornisce chiaramente tutta quella che è l'apparato di normalizzazione del fatto che quella stessa università esista, sia lì, sia chiamata israeliana e porti avanti tutta una serie di lavori come ad esempio quello che citavo prima. Non solo, ma poi il passaggio diciamo da questo sistema di normalizzazione a tutto quello che è l'apparato bellico, quello che diciamo in questi giorni, in questi mesi ci interessa in Italia in generale e in questi giorni chiaramente ci interessa maggiormente perché sono poi tutti quegli strumenti che sono utilizzati per bombardare Gaza, per reprimere la popolazione palestinese in West Bank, diciamo in maniera più forte, ma come si diceva prima, come succede da 17 rispettivamente 17 e 75 anni. Tutti i vari accordi che esistono sono spesso volti allo sviluppo di tecnologie belliche. Questo può essere fatto in maniera più palese o meno palese. Meno palese può essere banalmente, l'accordo quadro, adesso non ricordo con quale università ce l'ha, però l'università di Ariel, che è un'università in Israele, che ha la sede all'interno di una colonia illegale. Le colonie, appunto, spiegava prima Cecilia che cosa sono. Sono illegali persino secondo il diritto israeliano, non quello internazionale, non il nostro, né tantomeno quello palestinese, quello israeliano. Sono illegali, eppure c'è un'università che ha il campus all'interno di una colonia illegale. Banalmente, quindi questo, il fatto di avere poi un rapporto con quel tipo di università significa normalizzare e legittimare il fatto che ci sia un campus all'interno di una colonia in cui sono state cacciate le persone che prima ci abitavano. Dall'altra parte, alcune collaborazioni nello specifico sono più facilmente riconoscibili perché producono vero e proprio materiale bellico, che poi questo può essere il sistema d'arma tradizionale, può essere il sistema securitario, la telecamera infrarossi, eccetera, eccetera. Anni fa, in realtà purtroppo esiste ancora, un po' meno forte, ma ce l'abbiamo ancora, a Torino avevano aperto questo accordo quadro, quindi vuol dire che riguarda diciamo tutto l'Ateneo e quindi tutte le varie facoltà all'interno dell'Ateneo possono intessere relazioni con quest'altro Ateneo, che è un politecnico che si trova a Haifa, si chiama Technion, ed è un politecnico in cui vengono sviluppati i droni che vanno poi a buttare le bombe senza bisogno che qualcuno ci sia fisicamente sopra l'aereo, i bulldozer radiocomandati che vanno a distruggere le case dei palestinesi in telecomandata a distanza. Tutto questo lo fa il politecnico del Technion, in collaborazione con l'Università di Torino, l'Università di Napoli, il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, che non solo gli forniscono gente che va a lavorare per costruire questo genere di tecnologie, ma anche una miriade di soldi. Quindi chiaramente andare a rescindere un contratto del genere ti permette appunto da un lato di smascherare e di rendere evidente qual è il ruolo politico di quell'accordo e dall'altra parte il fatto che comunque hai due persone in meno che ci lavorano, tot milioni in meno per produrre quelle tecnologie lì, quindi magari insomma qualcosa di buono si sta facendo. Dall'altra parte non basta, nel senso che chiaramente il sistema è oppressivo, è sempre molto più intelligente, a volte molto più avanti di noi, no? Le cose le scopriamo un po' dopo purtroppo, e ha costruito un sistema di finanziamenti con delle relazioni incredibilmente capillari che tocca qualsiasi genere di istituzione, ente, ateneo micro, macro, di serie A, di serie B, come piace chiamarli allora, eccetera. E questi finanziamenti arrivano quindi non soltanto da uno scambio tra un singolo ateneo e un altro, ma dallo stesso programma, non so se l'avete mai sentito parlare, Horizon Europe, Horizon 2020, che sono questi sistemi di finanziamenti, accordi quadri finanziati dall'Unione Europea in cui Israele partecipa. Intanto, chiaramente non per una questione di campanilismo, a me non me ne frega granché dell'Unione Europea, però il fatto che Israele prenda dei soldi dall'Unione Europea, quantomeno a livello politico è peculiare, è interessante. E se poi si vanno a vedere quali sono questi progetti in cui Israele prende dei soldi, diventa un po' più chiaro qual è il meccanismo. Poi peraltro c'è stato un passaggio, adesso poi ve lo descrivo meglio, sto facendo un po', sto andando un po' a braccio, un po' a caso, poi se no non ci capiamo, mi ripeto su alcune robe. Quindi ci sono questi programmi di finanziamento, i soldi vengono dall'Unione Europea, chiunque fa parte, partecipa a questo singolo bando, vince dei soldi per portare avanti questo progetto. Anzitutto è interessante contrapporlo rispetto ad un normale finanziamento dell'università e della ricerca pubblica, in cui io ti finanzio in quanto ente di ricerca, poi cosa ci fai lo decidi tu. In questo caso chiaramente tu vai a finanziare dei singoli progetti che sono quelli che tu ritieni meritevole sulla base di quello che è il tuo sistema produttivo, capitalista, estrattivista e via di seguito. In cui partecipa chiaramente chi va avanti con questa retorica, chi cerca di rifuggire questa retorica chiaramente non prenderà dei soldi. Meno finanziamento pubblico vuol dire che in un certo senso, volendo credere alla buona fede, al buon cuore di una serie di atenei, enti, per quanto si possa fidare o non fidare, fatto sta che a un certo punto diventa sostanzialmente l'unica via per prendere dei soldi, quindi la via è un po' definita, volendo o non volendo. Che io creda particolarmente nella buona fede degli atenei, non conosco quello di Firenze e quello di Torino, ci credo poco. All'interno di questi progetti Israele ha partecipato con Horizon 2020, quello che si è chiuso nel 2020, ha partecipato in 1216 progetti e ha ricevuto quasi 900 milioni di euro. Quello Horizon Europe non ci sono i dati totali, perché chiaramente non essendo ancora finito loro possono aprire bandi nuovi ogni giorno. Ci sono sul sito dell'IPCC, poi se volete ve lo faccio vedere, c'è un pamphlettino che potete scaricare in cui c'è sostanzialmente in quali programmi di Horizon Israele viene finanziata e quali atenei o quali industrie. Chiaramente quelle che figurano maggiormente sono il Politecnico che vi citavo prima, che fa armi, sistemi d'arma, eccetera, il Technion, ma l'Israel Aerospace Industry, che quindi è diciamo, il reparto militare aerospaziale dell'esercito israeliano, e tutta una serie di la Elbit, per esempio, che è un'azienda di armi che produce sistemi d'arma tradizionali banalmente, che riceve finanziamenti. La differenza tra il primo programma e il secondo è che nel primo programma andava molto di moda il concetto del dual use, che non so se avete presente. Sostanzialmente prendo un progetto civile, fintamente civile, e poi, o meglio, prendo un progetto militare e lo nascondo dal progetto civile. Faccio un esempio, quando stavo all'Università di Bologna c'era questo accordo con la Israel Aerospace Industry dell'Università di Bologna, Politecnico, per rendere gli aerei più silenziosi, con un'azienda israeliana che nello specifico si occupa di trasformare gli aerei da uso civile a uso militare. Ora, cioè, mi prendi per pazzo se non trovo, come dire, il succo militare a questa questione non è neanche poi particolarmente nascosto. Peraltro la stessa Unione Europea, cioè il dual use era vietato nell'Horizon 2020, ma la stessa Unione Europea poi pubblica un report che si chiama EU Funding for Dual Use, una cosa del genere, in cui ti davano tutte le linee guida per come riuscire a trasformare il tuo progetto militare in civile per rientrare all'interno di quel borderline del dual use. Quindi di nuovo c'è abbastanza palese. Evito i commenti perché sarebbero un po' scurrili. Horizon Europe cambia un po', nella misura in cui questo concetto di dual use non è più tanto borderline, ma ci sono inseriti come legali, cioè che vanno bene all'interno di questo pacchetto di finanziamenti, sistemi d'arma non mortali, tipo, adesso non mi ricordo più come si chiama, comunque è un aggeggio che produce un fischio a ultrasuoni che ti rende incapace di muoverti sostanzialmente perché sei paralizzato da questo suono per controllo e gestione della folla. Questa cosa è finanziata dall'Unione Europea e non mi ricordo quale ateneo italiano ci partecipa, dovrei riguardarlo, però cioè, questo è, quindi già c'è un cambiamento da uno all'altro che secondo me è molto rappresentativo del clima di militarizzazione sempre più capillare che stiamo vivendo e questa escalation costante verso un regime di guerra per cui diventa come dire importante avere lo zampino all'interno di un sistema di finanziamenti di quel tipo perché poi mi garantisce che lo strumento una volta che è realizzato io lo posso tranquillamente avere perché io stesso ho contribuito a crearlo, magari mandando un ricercatore a fare quel lavoro lì, magari spedendoci, che ne so, un giovane dottorando o dottoranda sottopagato, o che so io. Perché, cioè, facendo questo quadro è abbastanza evidente perché Israele è inserito all'interno di questo sistema di finanziamenti. Israele è un paese che nasce e vive per la guerra, è nato in guerra, e nasce nel 48, in contemporanea della Nakba, quindi secoli palestinesi, c'è stata la catastrofe, l'esodo di 700.000 persone, dall'altra parte chi festeggia la meravigliosa nascita dello Stato di Israele. È uno Stato il cui 9% del PIL viene dal settore militare, è uno Stato in cui la cultura del nemico permea ogni aspetto della vita, le persone fanno la leva militare obbligatoria, ogni capo di Stato, ogni ministro ha fatto carriera nel militare. Se uno guarda anche solo come è fatto un sussidiario, quindi il librino che c'hai alle elementari, sembrano le vignette che si vedevano durante il fascismo per la colonizzazione dell'Etiopia, letteralmente. Quindi vieni educato con la necessità della difesa, vieni educato all'odio in difesa di un popolo che sarebbe suppostamente minacciato, e questa cosa qua fa parte della cultura, quindi anche tutto quello che viene sviluppato a livello di ricerca e di accademia chiaramente figlia di questo modello. Non solo, Israele ha appunto instaurato questo modello per cui ad esempio non sono le università, cioè non sono i privati, in questo specifico privati militari, che cercano di entrare all'interno dell'università, ma sono le università che cercano il supporto del militare per farle rientrare, per avere dei soldi, per avere dei finanziamenti. È tutto incredibilmente collegato. E peraltro, come dire, il sistema di occupazione che loro hanno stabilito, l'embargo totale su Gaza, l'occupazione della West Bank, la costruzione del muro, tutte le varie guerre periodiche che Israele ha fatto negli anni tra Libano, la Siria e via di seguito, sono stati di fatto dei terreni di prova, non soltanto per l'arma X che io ti testo sui palestinesi, prendiamo l'esempio del fischio di primo, per loro una passeggiata, hanno un terreno sperimentale che è il popolo palestinese, su cui testare questa roba qua e poi riversarla nel mercato globale con lo stampino con scritto già testato, e quindi chiaramente avere Israele come partner funziona. Ma in più quello che esporta è proprio il modello generale. La cultura del nemico interiorizzata all'interno della società non è diversa da quello che stiamo cercando di fare noi rispetto a qualsiasi persona migrante che arriva in Italia. Frontex collabora, riceve soldi e finanziamenti e addestramento da Israele, non è un caso. E non è un caso che appunto tutta una serie di meccanismi anche, come dire, sociali di controllo della folla, della popolazione, siano in realtà, come dire, un modello che Israele esporta e cerca di arrivare alle latitudini, non perché noi poverini stiamo lì ad aspettarlo, chiaramente perché è l'obiettivo che ha sia l'Italia che l'Europa nel costruire questa grande fortezza a protezione dell'uomo bianco e chissà che. In Italia anche all'interno di tutto quello che è il sistema educativo e formativo, negli ultimi anni l'ingresso del militare all'interno delle scuole è abbastanza palese, dalle alternanze scuole-lavoro che fanno in basi militari, in Sardegna alle basi militari, in Sicilia al MUOS o ai vari aeroporti militari, eccetera, sono delle cose che oramai sono all'ordine del giorno. Il fatto che vengano i militari a farti delle lezioni di storia portando avanti i loro ideali di uomo forte, di protezione dello Stato-nazione, dell'eroe, del militare, cioè sono cose che stanno purtroppo accadendo tutti i giorni. L'ingresso liberamente della polizia nelle scuole col decreto Caivano, cioè, ci dà un'idea di qual è l'indirizzo che sta avendo anche nelle nostre istituzioni. E quindi il fatto di avere Israele come partner, perché è molto più avanti di noi, semplicemente. L'ha già fatto, ha già avuto modo di testarlo, e quindi avere come partner strategico chiaramente diventa essenziale. Perché questa roba qua ci interessa, al di là del fatto di bloccare lo sviluppo di, che ne so, l'arma col fischio, perché poi la usano in Palestina e poi la usano su di noi la prossima volta che andiamo a manifestare in piazza. Il punto è che più tu hai bisogno di Israele, più hai bisogno del suo papà, più diventa un partner strategico, più ne hai bisogno e più è impossibile che tu possa tagliare i rapporti e quindi applicare tutte quelle che sono quelle sanzioni o quelle risoluzioni ONU che vengono fatte quando si macchia il crimine di guerra. Non avremo mai, come dire, un'istituzione italiana che prende, riceve armi, soldi, finanziamenti, addestramento delle forze di polizia, via di seguito, da Israele. Non ci potrà mai essere una presa di posizione forte rispetto al fatto che Netanyahu dovrebbe essere processato per crimini di guerra. Questa roba non succederà, a meno che tutte queste relazioni, che chiaramente adesso stiamo parlando di università militare, ma toccano tutti gli aspetti, dalle campagne di pinkwashing, di greenwashing, il fatto che Israele sia l'unica democrazia del Medio Oriente, sono tutte cose incredibilmente funzionali. Scusate, non so neanche da quante ore sto parlando. Sono tutte cose estremamente funzionali a, a mantenere un, come dire, una legittimità e quindi una impunità di quello Stato a livello internazionale. E quindi in questo momento, nello specifico, è fondamentale andare a rompere tutte quelle, tutti quei tasselli, tutte quelle catene che ci tengono di fatto vincolati a Israele, perché altrimenti è difficile che, cioè, noi possiamo andare a manifestare in piazza, noi possiamo organizzare qualsiasi tipo di raccolta fondi, cercare di spingere perché arrivino gli aiuti umanitari, ma difficilmente da parte delle istituzioni, così come da parte dei media, vedremo una presa di posizione forte rispetto a questo. Almeno questo è un po', un po' come anche noi come lavoriamo, quindi tutte le varie campagne di boicottaggio, disinvestimento e sanzione, quindi il movimento BDS internazionale o BNC, che è quello palestinese, sono volte anche a questo. Da un lato rovinare quella che è la propaganda e quindi l'immagine che Israele si è fatto, che si rende di fatto, come dire, appetibile, interessante e giusto rispetto alla popolazione italiana, europea, americana, occidentale in generale, direi anche occidentale, e dall'altra parte chiaramente fargli mancare tutto quello che è il supporto economico e la legittimità che in questi anni gli abbiamo di fatto garantito. Basta, scusate, sono stata forse lunghissima. Io avevo una domanda da porre a chiunque voglia rispondere. Magari proviamo a rivolgerlo verso... Grazie. Ok, ora abbiamo visto appunto che Israele utilizza questi metodi di indottrinamento quasi, no, di cultura dell'odio nei confronti del popolo palestinese, ma esiste una parte critica israeliana che riconosce quali sono i limiti di questa ideologia imposta e che comunque lotta per portare avanti anche magari le istanze della resistenza palestinese, armata o non armata, pacifica o meno? La mia domanda è se esiste, non sono informato. Se vuoi rispondere te, Cecilia, o non so. Scusate, ora la tecnologia ho dei problemi seri. Sì, ce ne sono altre, magari le domande così le raccogliamo. Ah, okay. Sì. Io volevo chiedere se, anche non so, non ti piace Cecilia, come la domanda. Visto che c'è difficoltà, mi sembra, almeno io l'ho riscontrata, a informarsi su questo, quali sono i rapporti tra la resistenza palestinese civile e le resistenze con Hamas, a livello sia di rapporti di forza, cioè se effettivamente c'è competizione oppure c'è collaborazione, perché generalmente arriva molto poco rispetto a questo. E sembra che l'unico soggetto attivo sia Hamas, poi noi sappiamo che non è così, però definirne un po' più lo specifico questa è la mia domanda. Posso cominciare oppure prova a fare per Luca. No, io la mia curiosità era sapere, cioè la formazione di blocchi a livello internazionale che sono o pro Palestina o pro Israele, quindi blocchi di divisione più netti. Volevo sapere la posizione e come si stavano muovendo e vedi come l'Iran, l'Iraq, la Siria e insomma tutti quei paesi di quella fascia, quella zona, e quindi niente, come si schieravano e come si stavano muovendo. Sei riuscita a sentire? Sì. Okay. Perché oggi stiamo parlando, diciamo, di un conflitto specifico, ma come veniva già un po' fuori negli interventi delle relatrici, di fatto siamo in un periodo storico in cui si sta concretizzando sempre più la prospettiva di una nuova ridivisione del mondo. Come vediamo, c'è già il conflitto in Ucraina, vediamo che molte popolazioni nel Nord Africa hanno lottato per rideterminare la loro autodeterminazione, e vediamo in questo senso anche che l'egemonia del blocco statunitense imperialista sta iniziando a traballare, e ci sono altri paesi che invece si pongono anche come alternativa in questo senso. Quindi secondo me è bene tenere a mente che di fatto il nostro Stato si comporta già come se fosse uno Stato di guerra, che decide di investire il 2% del PIL nelle spese militari, che decide allo stesso tempo invece di continuare a tagliare su servizi essenziali per la popolazione, come può essere l'istruzione che noi vediamo come studenti universitari, ma anche la sanità. E in questo senso, quindi, secondo noi è anche importante riconoscere che queste guerre nascono per le crisi economiche, nel tentativo di poter appunto di conquistare nuovi spazi di mercato piuttosto che influenze politiche, poi anche se non vengono combattute e svolte nei nostri territori, hanno delle ricadute dirette sulla nostra vita. Quindi sia, come dicevo, in termini di spesa pubblica, ma lo vediamo anche come giustificazione della crisi attuale. C'è la guerra, quindi è giusto che tutti si faccia sacrifici, però chi deve fare i sacrifici poi siamo sempre noi, studenti e lavoratori, e non invece le aziende belliche che da questi conflitti guadagnano o chi ha interessi economici e investimenti in quei paesi. Quindi niente, in questo senso secondo me, anche rispetto alla domanda a cosa dovremmo fare noi, mi tornava anche molto a quello che diceva Olivia, ovvero di andare a identificare anche le collaborazioni, cioè le collaborazioni e il coinvolgimento che il nostro paese ha già nel perpetrare questo tipo di conflitti, e andare a riconoscere anche come elemento in opposizione a noi chiaro appunto l'imperialismo americano, che sul nostro territorio continua comunque a costruire basi militari, ad avere appoggi, devastando anche il territorio. Non so se tutti lo sapete, ma c'è anche l'intenzione di costruire una base NATO nel quartiere di Lorenzano qui a Firenze, comunque l'ennesimo appoggio militare rispetto alle guerre che l'America ha. Hai sentito? Sì, grazie. Proviamo a rispondere? Sì. Allora, intanto voglio ringraziare le ragazze del progetto Palestina, anche il tipo che sono messo bene, perché a Torino hanno organizzato delle iniziative straordinarie di veramente altissima qualità, e anche nell'intervento di oggi avete confermato la vostra competenza, quindi vi ringrazio moltissimo, e credo che sia fondamentale lavorare sulle relazioni proprio che esistono tra i nostri contesti e un sistema di oppressione che viene imposto solo apparentemente lontano. A me piace sempre citare il nostro amatissimo Vittorio Arrigoni, che diceva sempre: la Palestina può essere anche fuori dall'uscio di casa, e credo che potesse intendere esattamente questo, cioè che a volte ci sembra che quel contesto non ci riguardi, mentre invece ci riguarda moltissimo, non solo perché non possiamo definirci persone libere finché altre persone non lo sono, ma anche perché appunto abbiamo delle complicità dirette e ognuno nel suo pezzettino può lavorare per farle emergere e metterle in discussione. E io credo che questo risponda un pochino alla prima domanda su come possiamo aiutare. Noi siamo profondamente impotenti in questo momento di fronte a ciò che stiamo vedendo, no? Credo che sia un sentimento diffuso sia per chi la professione la frequenta da poco, sia per chi invece sotto quelle bombe in questo momento ha amici, colleghi, persone care, come può essere nel mio caso, o quello di tanti altri, per cui c'è anche un elemento umano molto così difficile da gestire, perché appunto c'è una grandissima impotenza. Io però penso che la chiave sia esattamente questa, cioè che ognuno di noi può fare del suo meglio nel suo pezzettino. Allora, se chi ha l'università, il lavoro, sulle complicità tra i propri atenei, tra i nostri atenei e l'industria bellica israeliana, credo che abbia fatto già moltissimo. Se i sindacati italiani, per esempio, c'è stato un appello proprio in questi giorni dei sindacati palestinesi che hanno fatto rivolto un appello a quegli italiani dicendo: come avete fatto in Sudafrica con l'apartheid? Aiutateci, boicottate, fermate i porti da cui partono le armi, fermate lavoratori e lavoratrici, no? Fate ognuno quello che può nel suo pezzettino. E questa è una cosa che nella storia ha funzionato. Non a caso, nell'ormai lontano 2005, se non sbaglio la data, la società civile palestinese aveva invitato ad aderire alla campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele, che è una campagna non violenta, in realtà, è una forma di resistenza non violenta, perché non va a toccare le persone, ma va a toccare gli interessi economici, politici, strategici, di assi militari dello Stato. E non è un caso che quella campagna sia stata in assoluto l'unica che ha davvero preoccupato le autorità israeliane, perché a un certo punto anche la possibilità di riuscire a passare i controlli di sicurezza e di entrare in Israele, sapete che poi di andare in Palestina l'unico modo è passare per il controllo delle autorità israeliane, anche per noi, anche se voi domani ci dovete andare, sia passando dalla Giordania che dall'aeroporto di Tel Aviv, comunque bisogna passare per i controlli israeliani. L'aderire o meno a quella campagna è stato un bello screening, voglio dire, no? Ecco, quindi credo che questo sia un momento veramente gravissimo, e per questo è un momento nel quale non credo che ci sia bisogno di slogan, ma di grandissima competenza. Perché quello che noi possiamo fare, io vi riporto le parole sempre delle persone palestinesi perché credo che sia la cosa migliore e utile che possiamo fare. Questa è un post che è su Ramzi Barud, che è un direttore del Palestine Chronicle, che è una delle principali fonti, diciamo, palestinesi a cui noi abbiamo accesso perché è scritto anche in inglese, che dice proprio: come possiamo supportare la popolazione palestinese in questo momento? Condividere notizie su quello che sta succedendo, fornire contesti, quello che abbiamo cercato di fare oggi che vi dicevo. Non chiedere scusa per la resistenza, rispetto a quello che dicevano anche le ragazze prima. Non è necessario, secondo me, posizionarsi rispetto a Hamas, perché non è questo il punto, la domanda è mal posta. Nessuno ha la tessera di Hamas in casa, in tasca, io ho solo la tessera del supermercato. Quindi non serve scendere in questo terreno di dibattito. Quando vedete in televisione ospiti israeliani, che sia sulle reti italiane o su quelle estere, qualcuno chiede mai agli israeliani di dissociarsi dalla violenza che sta esercitando il proprio esercito? Non mi pare. Quindi è una domanda che è proprio mal posta, che bisognerebbe provare a uscire, a sfuggire. Quello che noi dobbiamo fare è esprimerci sull'ingiustizia, condannare l'oppressione, attenerci ai fatti. E l'oppressione, purtroppo, che appunto, come dicevano le ragazze, è un genera sangue. I processi di decolonizzazione, purtroppo, non sono teorie astratte, sono questioni molto pratiche, molto reali, e per quanto sia terribile e sia doloroso, purtroppo non sono processi indolori. Che cosa ci chiede ancora in questo post-Ramzi? Ci dice: ascoltate le voci palestinesi, non giudicate, non è assolutamente rilevante il vostro punto di vista. Non insegnate quale esperienze non dovrebbero esistere, questo vale in un modo o nell'altro. Io credo che anche come solidari, anche i movimenti solidari del corso dei decenni abbiano rischiato un po' di crearsi un immaginario per cui il palestinese e la palestinese diventava quasi l'emblema, no? Una lotta contro l'ingiustizia, doveva rispondere ai parametri che piacevano a noi, sempre in Occidente. E questo però non funziona né per come si esprime la resistenza, né per come le vittime di un sopruso decidono di reagire. Questo non è una categoria morale quella che si può chiamare in causa. Chiede poi di scrivere ai nostri rappresentanti politici, scrivere sui giornali, diffondere, insomma, in qualsiasi modo amplificare la voce dei palestinesi e delle palestinesi. E questo, come dicevo prima, abbiamo oggi la possibilità di farlo grazie ai social media. Stanno girando tanto in questi giorni delle liste di account da seguire, per esempio. Io stessa ne ho fatta una perché mi è stata chiesta, quindi sarò felicissima di condividerla con voi se volete, di persone, analisti, giornalisti che si occupano della questione che stanno sul campo. Rispetto invece alle domande più specifiche che avete fatto, sono tutte abbastanza complesse. Esiste una critica israeliana? Assolutamente sì, anzi, come dicevo prima, i giornali israeliani ci stanno dando una lezione di grandissima democrazia e apertura alla libertà di parola. Gli editoriali più coraggiosi e critici nei confronti del governo israeliano, empatici nei confronti della popolazione palestinese, io li ho letti da Gideon Levi, da Amir Hasso, da Abel Matar, che sono tutti giornalisti israeliani, di media evidentemente o indipendenti o schierati politicamente. Haaretz, per esempio, è il principale giornale dell'area libera israeliano, 972 Mag, di cui facevo il nome di Arena Parra, è il principale giornale indipendente israeliano. Stanno prendendo delle posizioni coraggiosissime e lo hanno fatto all'indomani cose che hanno colpito da vicino comunque la propria popolazione. Arena Matar, la mattina dell'occo, quindi quando era proprio ancora in corso quello che stava succedendo, ha scritto: certo che ho paura di quello che sta succedendo, ho paura per i miei cari, ma mi rendo conto che è una paura che i miei fratelli palestinesi vivono da decenni, è un decimo di quello che loro subiscono da anni. E questa è la capacità di restare umani che in tanti e tanti hanno conservato. A livello di società civile va detto questo, che c'è stata un'epoca in cui il campo per la pace cosiddetto israeliano era molto attivo, sono nate delle organizzazioni importantissime che ancora oggi operano, penso a Breaking the Silence, che con tutti i punti di stimolo del caso, che sono comunque ex militari che si muovono nell'anonimato, insomma, ci sono anche molte critiche a sinistra su Breaking the Silence, ma è un'organizzazione di ex militari che denuncia ciò che loro sono stati costretti a fare, ed è una fonte molto importante. Penso a Zero, penso alle organizzazioni antisioniste, cioè che rifiutano il principio sionista di colonizzazione del territorio palestinese, che sono fondamentali e che sono anche quelle che per l'Occidente rappresentano un buon fare, perché è chiaro che se a denunciare la parte di un'organizzazione israeliana pesa molto di più che se a farlo lo è una palestinese. Purtroppo funziona così. C'è stato un tempo in cui il campo, diciamo, progressista e antisionista ha avuto, insomma, degli anni di gloria. Questo si è un po' più infranto dopo, secondo me, il fallimento degli accordi di Oslo e la seconda intifada, che ha provocato una frattura che forse, dovremmo perderci del tempo per analizzarlo, è simile a quello che sta succedendo adesso, quindi una spaccatura molto forte anche all'interno della società israeliana, perché quando si tocca la popolazione civile è chiaro che è molto più difficile muoversi veramente, diciamo, e esprimere anche un sostegno politico perché appunto stia avvenendo. Le grandi manifestazioni recenti che riempivano le piazze di Tel Aviv, esempio, contro la riforma del sistema giudiziario in Israele, contro il governo di Netanyahu, che ricordiamo sempre è il governo più a destra della storia di Israele, che alza un tema, una centinaia di elementi che sono dichiaratamente suprematisti, razzisti e xenofobi, quindi c'è un problema comunque di tenuta democratica interna a Israele, ammesso che vogliamo applicare la categoria di democrazia allo Stato che pratica l'apartheid e persegue il colonialismo insediamento, ma concentriamoci soltanto sul sistema interno. Poi le manifestazioni non hanno minimamente tenuto in considerazione le persone del popolo palestinese, che erano tutte interne, e anzi quelle 2 o 3 persone che hanno provato a portare la voce della questione palestinese, provando a dire di che stiamo parlando, cioè come possiamo noi manifestare per la democrazia se poi a 3 chilometri da qui opprimiamo un altro popolo, sono state brutalmente silenziate. Quindi questo ci dice molto, no? Di come la società israeliana, ahimè, negli ultimi anni si sia molto spostata a destra e abbia, secondo me, un po' considerato chiuso il file palestinese. Lo dimostra anche l'arrivo dei militari che hanno subito quell'attacco del 7 ottobre, perché è incredibile che non ci fossero presidi militari fuori dalla striscia di Gaza in grado di rispondere a quell'attacco, no? Quindi dimostra che almeno il file Gaza era considerato dalle autorità israeliane un file chiuso. In generale, diciamo che anche i giovani e le giovani israeliane vengono cresciuti in un modo per il quale l'altro palestinese o lo conoscono da dietro il vetro di un carro armato, perché appunto devono servire nell'esercito tutte e tutti, rimangono riservisti per combattere la loro vita, oppure è veramente molto difficile perché si è creata proprio una separazione, è stata creata l'arte una separazione, perché è molto difficile che ci siano occasioni di andare. Nonostante questo ci sono degli splendidi, delle splendide attiviste israeliane che da tantissimi anni partecipano a loro rischio pericolo alle manifestazioni non violente palestinesi nei villaggi, che in qualche modo sostengono il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. Qui vengo alla domanda su quali sono i rapporti di potere interno alla resistenza. È estremamente complicato perché in realtà la maggior parte dei palestinesi, dei palestinesi, io credo, anche se non mi permetto di parlare per loro, non abbia grandissima simpatia a Hamas. Hamas in realtà è un partito che ha vinto le elezioni più con un voto di protesta, secondo me, della popolazione palestinese che era stanchissima della mala politica, della corruzione, della mala gestione di Al-Fatah, che è un partito che ha notevolissimi problemi anche di contro politica e democratica. Quindi nel 2006 io credo che Hamas vinca le elezioni più come segno di protesta che come segno di spostamento verso l'islam politico in massa della popolazione palestinese. Detto questo, i fatti del 7 ottobre sono stati visti comunque in maniera, devo dire, pressoché unanime, come la naturale conseguenza di un'oppressione troppo a lungo, di una deumanizzazione assolutamente inspiegabile nel 2023, e quindi diciamo che per quanto magari abbiamo messo in discussione le pratiche militari e anche la visione politica che ha Hamas per quella che sarà, speriamo un giorno, la costituzione dello Stato in Palestina, c'è un'aderenza quantomeno alla necessità di rivoltarsi. Che la rivolta sarebbe partita da Gaza, che una eventuale terza intifada sarebbe partita da Gaza, si sapeva, era evidente che sarebbe partita dal cuore della questione palestinese, dal cuore dell'oppressione. Tuttavia, ecco, anche dire che quella è un'azione che è stata orchestrata solo da Hamas è un'imprecisione, perché partecipano anche altre fazioni, tra cui quelle laiche, la risposta, diciamo, di adesione è stata pressoché unanime. A prescindere, ripeto, dal fatto che si condannino poi ovviamente le perdite di vite civili. Rapporti di potere, difficile da dirlo, nel senso che Hamas e Fatah si detestano cordialmente, neanche troppo cordialmente, nel senso che, ripeto, nel 2006-2007 abbiamo assistito a una guerra fratricida che è stata un fiume di sangue, quindi hanno delle visioni del mondo completamente opposte, e sicuramente il fatto che la NP e Hamas non si siano molto sbilanciati rispetto ai fatti del 7 ottobre dimostra questa spaccatura. Detto questo, non so, insomma, i tentativi anche in passato di unire le forze ci sono state, ho l'impressione che appunto siano rappresentazioni e visioni del mondo talmente distanti tra loro che è un po' difficile conciliabile. è senza dubbio vero che in questo momento la predominanza sia politica che militare l'ha presa decisamente Hamas in un contesto in cui la RT e Alfa Pass sono schiacciate e sono diventate ormai, lo dicono molto spesso i palestinesi, di contatto con l'esercito israeliano, nel senso che se voi andate nei territori occupati, fino a poco tempo fa era anche molto diminuita rispetto al passato proprio la presenza militare dell'esercito, perché non era più neanche tanto necessario che ci fosse. Rispetto ai blocchi Iran, Iraq, Siria e diciamo il mondo arabo islamico in generale, io non sono esperta di relazioni internazionali, non sono geopolitica, quindi posso rispondere rispetto a quelle che sono state le risposte popolari più che statali, perché le piazze di tutti i paesi quasi distintamente del mondo arabo sono stracolme di persone, dalla Giordania all'Iraq, al Marocco, all'Egitto, si stanno organizzando continuamente manifestazioni di sostegno alla causa palestinese che nel mondo arabo è percepita ancora come una causa assolutamente centrale, dalle persone, ai popoli, dagli stati molto meno, nel senso che una delle ragioni per cui la Palestina, la questione palestinese è stata dimenticata, abbandonata a se stessa in questi anni, è anche responsabilità dei governi arabi che hanno continuato ad utilizzare la retorica della solidarietà alla Palestina, facendo però per la Palestina praticamente niente. Anzi, andando a sfondare con Israele tutta una serie di accordi che vengono erroneamente chiamati in questi giorni accordi di pace, non sono accordi di pace perché non c'era una guerra tra il Marocco e gli Emirati, con quelli che sono stati chiamati insomma, gli accordi di Abramo, sono accordi di tipo economico-militare, di collaborazione e cooperazione economico-militare, che di fatto vanno a normalizzare le relazioni tra Israele, che fino a qualche decennio fa è il grande nemico degli stati arabi, e che invece oggi vengono del tutto normalizzate. In tante osservatori e osservatrici internazionali non hanno infatti considerato la data del 7 ottobre non casuale, perché si stava per siglare un accordo separato di normalizzazione che non era presa in vita, lì sarebbe venuto giù, diciamo, l'ultimo grande ostacolo alla totale normalizzazione delle relazioni politiche, diplomatiche, economiche e militari tra Israele e i paesi arabi. Quindi diciamo che rispetto a questi blocchi c'è un problema di scollamento tra i governi e i popoli, perché ripeto che i popoli della questione palestinese rimane assolutamente centrale. Tutto il mondo arabo distintamente si è sollevato, soprattutto dopo i fatti dell'ospedale, che per quanto appunto, ripeto, non ancora riti accertati, hanno rappresentato un po' un punto di non ritorno, come dire, la misura è colma, peggio di così che può succedere, quindi le piazze sono state invase. Io ho visto delle immagini di Piazza Tahrir a Baghdad sconvolgenti, non si vedevano dalla fauna del 2019. E invece questa politica un po' delle due carte dei loro governi che però adesso si trovano stretti, nel senso che stanno già iniziando a esprimersi, a condannare, a minacciare la sospensione delle relazioni. Quindi diciamo che in questo momento i governi dei paesi diciamo circostanti, che sono più interessati da quello che sta succedendo, dovranno fare una scelta tra l'opportunità politica di proseguire le relazioni diplomatiche con Israele e però rispondere a dei popoli che invece stanno riempiendo le piazze. Non so se ho risposto a tutto, me lo auguro. Vabbè, di nuovo grazie a Cecilia, che è stata super esaustiva. Mentre tu parlavi e mentre passavano le domande mi sono venute in mente un paio di cose. Uno è un esempio per raccontare, cioè che secondo me è molto emblematico, descrive bene quel rapporto tra la popolazione e la resistenza. Questo è un fatto che è accaduto mesi fa a Jenin, prima dell'attacco brutale dell'esercito sionista nei confronti del campo profughi di Jenin. in cui appunto nell'ultimo anno si è mossa questa resistenza laica che si chiama la Fossa dei Leoni, che tiene al suo interno moltissime anime differenti, soprattutto giovanissimi provenienti dai campi profughi, Trajan e Naulus. Il fatto è sostanzialmente c'era questa persona che l'esercito stava cercando perché è accusata appunto di far parte di questa brigata di resistenza, ed era una persona rasata. Bene, i tre quarti del campo profughi di Jenin si è rasata in maniera tale che questa persona che stava lì all'interno non fosse trovata. Questo secondo me descrive molto bene quello del rapporto tra chi di fatto abbraccia la resistenza in prima persona, sia essa violenta, sia essa militante, militare o comunque essa sia, che sono perfettamente d'accordo, non sta a noi dire alla gente come deve resistere, e la popolazione poi di fatto locale che anch'essa di fatto resiste con il mero fatto di esistere e di rimanere in quel posto. Un'altra cosa che mi è venuta in mente è, tu appunto citavi la questione dell'accordo del secolo con l'Arabia Saudita. Ogni tot ci sono, peraltro era stato anche millantato dai giornali all'inizio che questo sollevamento popolare del 7 ottobre fosse per evitare l'accordo del secolo con l'Arabia Saudita, insomma una serie di ipotesi millantate così un po' a caso. Fatto sta che ogni tot ci sono degli accordi del secolo. Anni fa c'è stato quello col Marocco e lì secondo me di nuovo si vede molto bene qual è lo scollamento tra l'istituzione politica e la popolazione. Nelle piazze che sono state organizzate, ma appunto non so senza neanche andare tanto in là, in cui appunto le abbiamo viste penso tutte e tutti le immagini di queste manifestazioni faraoniche giganti appunto in moltissimi dei paesi arabofoni, ma banalmente nella piazza che abbiamo organizzato Torino qualsiasi persona razzializzata era in piazza per la Palestina, perché è una causa super sentita, perché viene ancora sentito come la liberazione della Palestina sia effettivamente un tassello che permette di ribaltare gli equilibri del mondo che vedono il bianco sopra a qualsiasi persona razzializzata. Ma anni fa c'era stato questo accordo del secolo tra Israele e il Marocco, che di fatto in che cosa consisteva? Di fatto in uno scambio di legittimazioni. Io legittimo la tua occupazione della Palestina se tu però legittimi me nella mia occupazione del Sahara. Cioè, questo era. Ogni tot ci sono questi accordi del secolo che si muovono chiaramente ad un livello di politica internazionale che nulla hanno a che vedere poi chiaramente con la posizione della popolazione stessa, ma che chiaramente vanno poi a supporto e che quindi rendono poi difficile, appunto come descriveva Cecilia, di poter avere poi uno Stato che di fatto fisicamente si muove in solidarietà alla Palestina, ma restano tutto un po' vuote. E l'ultima cosa che vi volevo citare era, invece rispetto alla prima domanda di che cosa possiamo fare, in questo libro che io ho qua, ma che è scaricabile in PDF gratuitamente dal sito di BDS Italia, al fondo ci sono delle schede in cui ci sono tutte le università israeliane, tutto lo schifo che fanno, per quale motivo, tutto giustificato con le fonti sono quasi tutte israeliane, ragione per cui questo libro non è stato, non ci è stato chiesto di, esatto, non è stato censurato, non ci è stato chiesto di ritirarlo, perché le fonti sono di fatto pubbliche israeliane, raccontano tutto lo schifo che fanno ogni genere di ateneo israeliano, e poi c'è anche una scheda al fondo in cui c'è scritto tutti gli atenei italiani con quale di questi collaborano. Oppure sul sito del MIUR sono pubblici. Se volete dare un'occhiata all'ateneo di Firenze con chi collabora, avete poi uno strumento comodissimo per dire voilà, questo è lo schifo che fa, vediamo se avete un certo, ai capi, a chi sta più in alto di noi, vediamo se con così tanta facilità riuscite a giustificare questo accordo qua. Poi comunque un'altra cosa si può fare scendere in piazza, ovviamente. Io sono messinese e mio fratello comunque fa informazioni su questo, su social, era arrivato con 100.000 follower e soprattutto è stato bloccato molte volte. E lui ha scritto 8 mail in un anno a Serafinaro, perché quando fu un giorno di Augusto il Manchester, che era di Amnesty International, che parlava di apartheid, Tarpunato ha detto Firenze si discosta da... è candidata a sindaco a Firenze. Grazie. Sì. E sarebbe l'assessora welfare a Firenze. E lei ha detto che Firenze si discostava, insomma, il testo voleva farlo togliere, mio fratello ha scritto delle mail dicendo che non è vero che Firenze si discosta da... che non, lei non può dare voce ai fiorentini, così. E lei, in tutta risposta, ha fatto arrivare dalla questura direttamente un ammonimento, cosa che non si potrebbe fare perché un ammonimento arriva dopo una serie di denunce. Però ha usato il suo potere perché, e l'ha accusato di cose non vere, perché l'ammonimento ovviamente non era solo il fatto che lui l'avesse mandato 8 mail in un anno, perché non è solo, perché poi email istituzionali può scrivere chiunque. E infatti l'ammonimento era, cioè, questo ammonimento era come se la vita di Sara Funari fosse a rischio, come se mio fratello l'avesse minacciata. E tant'è che dove c'era scritto l'ammonimento, c'era scritto cose non vere, che mio fratello l'avesse aggredita, l'avesse fatto della puttana, assolutamente no. E al massimo le ha date della fascista, visto sì. Mio fratello, per rispondere a questo ammonimento, alla questura ha risposto 12 pagine scritte allegando anche le mail che lui ha mandato a Sara Funari, ripeto, alle mail pubblica dove qualsiasi cittadino può scrivere. E Nardella ha bloccato mio fratello sui social, quindi ha proprio... Bene. Cioè, se provi a comunicare con i suoi politici ti bloccano, quindi... Il suo profilo appunto è stato censurato, questa informazione, ma non è che mette contenuti di odio contro Israele, anzi lui parla anche da un punto di vista di quello vivono gli israeliani, perché uno di miei zii, cioè il fratello di mio babbo, sposato una donna israeliana, quindi abbiamo cugini israeliani, mio fratello è stato fidanzato 2 anni con una ragazza israeliana, quindi lui racconta anche dalla parte degli israeliani, non di fondo di certo odio contro gli israeliani, racconta la realtà dei fatti, però questo profilo è stato censurato. Più volte i politici lo denunciano per cose non dire. Ma immagino tu sia la sorella di Karen. Sì. Una cosa che ha detto anche ieri la nostra compagna palestinese, cioè io non so più con quali parole esprimermi perché tanto mi dipingeranno sempre come terrorista, qualsiasi cosa io dica. Cioè, obiettivamente come non darle torto, cioè qualsiasi cosa provi a dire nel migliore dei modi, cioè io penso anche quello che è stato detto oggi, che si fa una narrazione dei fatti, può essere preso estrapolato e dire si sono espressi pro Hamas o supportano il terrorismo, cioè è proprio un sistema strutturale come abbiamo detto finora, quindi in un sistema dove c'è una violenza strutturale, la repressione è strutturale, lo vediamo in Italia, i palestinesi e le palestinesi lo vedono ancora di più, chi abita, cioè, ma anche chi abita, cioè chi è in diaspora, come voi immagino, che cioè, sei lontano da una terra, immagino, posso solamente immaginare quanto tu possa subire la violenza e soffrire, non poter magari tornare. Poi io parlo sempre per quello che mi viene detto da persone palestinesi con cui parlo, perché cioè, mi sembra l'unico modo sensato, cioè l'unico modo sensato di parlarne, perché comunque ricordiamoci bene che la persona palestinese media sa più cose della Palestina delle persone sedute qua. Cioè, le città dove vivono insieme le palestinesi non si parlano, perché cioè mia famiglia vive a Haifa, ma non... mio fratello è stato questa ragazza israeliana, si sono conosciuti a Firenze, lei è nata e cresciuta a Tel Aviv, ma non ha mai parlato con un palestinese in tutta sua vita, il primo palestinese con cui ho parlato è stato mio fratello perché si sono conosciuti a Firenze. Però è un po' assurdo che comunque nelle città dove magari vivono non ci sia comunicazione anche tra i giovani, ma proprio non si parlano, anche questa è una cosa grave. Sì, ma questo c'è, cioè, anche ritornando alla società, molte persone israeliane che vivono appunto appunto Tel Aviv, Haifa, magari non l'hanno nemmeno mai visto un palestinese, se non nei 3 anni di... perché cioè, sono 3 anni la militare obbligatoria, non per forza vai nei territori occupati, ma puoi stare anche in ufficio, quindi sì, c'è assolutamente la cosa decisiva. Poi comunque per chiarire un attimo, ci sono palestinesi con la cittadinanza del 48, ci sono palestinesi che vivono in West Bank e palestinesi che vivono all'interno della striscia di Gaza. E per questo si parla di apartheid. Io solo un'informazione al volo, non so se perché non è molto famoso, però esiste un centro che si chiama European Legal Support Center e fornisce, come si dice, aiuto legale, supporto legale gratuitamente nella misura in cui appunto si fa informazione sulla Palestina e si viene accusati di antisemitismo, accusati di aggressioni, accusati di qualsiasi genere di cosa. Human Rights Defenders. Però loro sono, essendo qua, hanno sede a Bruxelles, ma ci lavorano un sacco di avvocati e avvocatesse italiane. ELSC, European Legal Support Center. Sono dei grandi. Cioè noi quando ci hanno accusati di antisemitismo sono stati abbastanza alla svolta. Voilà, sono stati abbastanza alla svolta. Loro fanno questo, quindi se ti può essere d'aiuto, grazie. C'è gente che questo lo fa di mestiere. No. Di tutte le denunce per l'investigazione all'odio razziale non era quella che manco la volentieri. Non lo so, se ci sono altre domande. Okay. Volevo raccontare una storia che ho sentito da un ex sionista, cioè una ragazza che ha vissuto in nata Israele, quindi figlia di coloni, che andava nelle scuole e imparavano quali fossero appunto gli alleati di Israele. Questa ragazza era di origine russa, perché ha visto molti ebrei, erano comunque stati anche rifugiati, il colonialismo è nato anche da alcuni rifugiati che appunto scappavano dalle violenze antisemite, però è andata in questa scuola in cui appunto insegnavano ai bambini chi erano gli alleati di Israele e ovviamente devi puntare sulla mappa quali fossero le nazioni nemiche, tra cui gli Stati Uniti. Lei ha questo ricordo di questo bambino etiope, perché bisogna ricordare che ci sono anche etiopi ebrei, che vengono discriminati all'interno di Israele, quindi diventa sul nazismo bianco allo stato puro, che lui puntò Etiopia, perché ovviamente questo bambino veniva dall'Etiopia, e fu appunto gli lanciarono la roba addosso, con tutto il consenso del professore che guardava quello che succedeva. Ovviamente questa bambina di origine russa non ha puntato alla Russia e ha puntato agli Stati Uniti. E io vorrei chiedere una cosa. Allora, gli ebrei appunto hanno subito l'olocausto, cose terribili, uno dei peggiori eventi della storia. Com'è che il supremazismo bianco, perché si può parlare degli inglesi, si può parlare del supporto degli Stati Uniti, ma com'è che il supremazismo bianco sia entrato a dei livelli così forti in uno stato come Israele, che doveva essere nato da una specie di rivendicazione contro oppressione, ma poi si è risultato essere uno stato coloniale? È una domanda grandissima, ma sono curioso perché anche appunto etiopi ebrei che vengono discriminati, vengono anche qui incarcerati rispetto ad altri ebrei, perché non esistono solamente gli ebrei ascenazili, esistono anche i serapidi, poi appunto quegli etiopi, come mai non vengono, cioè proprio questo supremazismo bianco così assurdo che pare quasi ironico? Questa è la mia domanda. Ma io penso un po' sia stato anche detto, cioè secondo me il fatto è che Israele è stato fondato sulla guerra e è stato fondato su una cultura dell'evento incredibile. Cioè è l'Occidente bianco al suo modello più all'avanguardia. E boh, penso si possa spiegare abbastanza bene guardando la società israeliana come è nata, su cosa è nata, su comunque quando Israele, quando gli israeliani sono arrivati in Palestina, quando ancora Israele non esisteva, e bruciavano villaggi e c'entravano, non so come dire, è una società che rispecchia assolutamente la nostra e rispecchia assolutamente all'ennesima potenza alcuni lati della nostra. Cioè, se te vieni da una pagina nera della storia europea come l'Olocausto, che è stata una tragedia, hai anche riesci a creare una mania anche della persecuzione, quindi che la gente ti odia. Quindi uno dei discorsi che più sono girati in questi giorni, che sarà stato fatto diversi anni fa da Netanyahu, era un discorso dove lui diceva che non è stato Hitler a ammazzare gli ebrei, ma è stato un palestinese che ha detto a Hitler che andavano uccisi gli ebrei. Cioè, creare questa dialettica così propagandistica, così, cioè, entra nella testa delle persone e di conseguenza hai tutto un modo di ragionare dentro a quegli schemi. Poi ci sono persone che ne escono, e ne ho conosciute anche io personalmente, persone, la maggior parte refusnik, cioè che hanno rifiutato la leva militare obbligatoria, perché la puoi rifiutare, devi passare un periodo in carcere, carcere israeliano, e la puoi rifiutare però. E, tipo medie dell'anno scorso erano più o meno una ventina di israeliani all'anno. Poi ci sono altri modi per rifiutare la leva militare obbligatoria, che questo magari lo fai più come atto politico. E è difficile che a 18 anni magari uno riesca, una persona indottrinata in tutto questo, che pensate, cioè comunque è tutta la società che va a fare il militare. Quindi tutti i tuoi amici, tutte le tue amiche, tutte le persone che conosci, che con cui hai fatto la scuola insieme, in cui sei cresciuta, fanno la leva militare obbligatoria. È difficile scostarsi da questo in una società che è così pregna di una certa ideologia. E, quindi, cioè, apprezzo molto tra le persone israeliane che ho conosciuto, che è uscito e ha visto, si è semplicemente accorto di quello che stava succedendo attorno. E condanno altrettanto molto chi invece lo vede tutti i giorni, come chi abita nelle colonie, che come sapete sono in mezzo alla West Bank occupata, quindi sono messe anche in modo strategico per dividere villaggi, motivo per cui i blocchi della resistenza, stiamo parlando di una terra divisa, completamente divisa, anche nel framezzo, da colonie, da checkpoint, è completamente una terra divisa. È difficile per resistenza cooperare, ne nascono tante, riescono a trovare delle vie, però è molto difficile, perché è una terra assolutamente divisa fisicamente, e, perché comunque la popolazione è tutta una popolazione resistente, quella che è in Palestina. E niente, come ultimo discorso volevo solamente dire un accenno a quanto diceva Cecilia prima su il bombardamento dell'ospedale a Gaza. Non è la prima volta che Israele bombarda gli ospedali a Gaza, prima cosa, e temo non sarà l'ultima. E una risposta che ha dato una compagna palestinese a questa cosa è stata: viene detto che non ci sono testimoni, a Gaza abitano 2,5 milioni di persone, non sono testimoni bianchi, ma i testimoni ci sono, quindi cioè, è molto facile cadere secondo me nella retorica di chi ha la colpa, di chi non ha la colpa, ma se si guarda i fatti, cioè, è stato condannato da tutte le persone palestinesi, e cioè anche come sono state fatte anche delle analisi sui missili, perché non è esploso e non c'è la buca per terra. E, c'è un tipo di missili americani che in questo momento, degli Stati Uniti d'America, che in questo momento sono in Israele, che esplodono in aria prima dell'impatto. E quindi un missile del genere avrebbe sicuramente provocato quel tipo di esplosioni. Di conseguenza ti viene da fare 2 più 2. E niente, questo è quello che volevo dire. Posso aggiungere solo una cosa su questo, sul discorso che faceva la ragazza che ha fatto l'intervento a cui tu hai risposto. Tu hai ragione, tu hai perfettamente ragione. Il contesto ci suggerisce che questa cosa, giornalisticamente parlando, almeno è plausibile. Io mi stavo parlando proprio di mestiere, no? A livello giornalistico non c'è modo di verificare in maniera certa questa notizia. Ma a prescindere da questo, io vi faccio una domanda e ve la lascio aperta. Ci serve davvero questo per dire che c'è stato un genocidio e che c'è in corso un genocidio? Cioè, non ci serve, come dire, addirittura perdere energie su una ricerca infinita di attribuzioni di responsabilità rispetto a quell'atto. Qualcuno potrebbe anche dire che se anche fosse stato un razzo che è caduto male, quel razzo è stato sparato perché c'è un'offensiva in corso. Quindi è il contesto stesso che rende comunque la causa di tutto quello che sta succedendo l'oppressione a cui il popolo palestinese è stato sottoposto. Quando prima dicevo è un momento in cui ci servono i cervelli, ci serve la competenza, è proprio questo, cioè un momento in cui noi non ci possiamo permettere di contribuire a una macchina di diffusione di informazioni imprecise, non esatte, perché esponiamo il fianco in realtà. È un attimo che se contribuiamo a diffondere una notizia che non è assolutamente verificata, questo si ritorce contro di noi e abbiamo usato per dire, a vedere che fanno solo propaganda e questo sarebbe di Hamas. Quindi era in questo senso che stavo cercando di inquadrarvi. Le verifiche le farà poi, è stata chiesta, ho visto adesso da Biden un'inchiesta internazionale, le faranno i giornalisti quando riusciranno finalmente ad accedere a Gaza, no? Quello che tanti stanno dicendo è fateci entrare, perché non è possibile che ci sia un teatro di guerra nel quale i giornalisti non possono entrare. Perché questo vuol dire privare l'Unione Pubblica Mondiale anche di un punto di vista indipendente. Perché anche, come giustamente dicevi, i giornalisti palestinesi ci sono, ma non sono i giornalisti bianchi e quindi la nostra più di meno. Questo è un dato di fatto. Cioè noi dobbiamo essere consapevoli dell'ambiente anche culturale nel quale ci muoviamo e quindi essere estremamente intelligenti. Rispetto al discorso com'è possibile che un popolo che ha subito l'olocausto, io credo che qua occorra semplicemente tornare un attimo alla storia e fare sempre una distinzione molto chiara tra sionismo e liberalismo. Quello a cui noi stiamo assistendo, gli effetti a cui noi stiamo assistendo, sono prodotti dal sionismo, che è un movimento politico nazionalista, imperialista, che nasce molto prima della pagina atroce dell'Olocausto, nasce già alla fine dell'Ottocento, ha come obiettivo l'insediamento nella Palestina storica del popolo ebraico, attraverso delle ondate migratorie che iniziano già da fine 800 e prima del 900, che sicuramente con l'Olocausto subiranno un'accelerazione di massa. Ma anzi, attenzione a non cadere nell'errore di pensare che l'Israele che è oggi sia quello che è oggi in seguito a ciò che è successo, perché l'Israele che è oggi è un progetto di tipo politico, ci sono ormai milioni di fonti che possono dimostrarlo, che aveva un disegno preciso ed è un disegno che sta perseguendo. Quindi poi abbiamo anche una componente fondamentalista, che dobbiamo poterla assolutamente chiamare così, di coloni che hanno una missione che è proprio messianica, cioè che sono proprio convinti di appartenere pubblicamente a quella terra e quindi di essere giustificati a fare qualsiasi cosa. Purtroppo quella parte di popolazione che fino a qualche anno fa era minoritaria, oggi ce l'abbiamo al governo di Israele, perché il ministro Ben-Gvir della sicurezza nazionale dice delle cose che sono inascoltabili, no? In un consesso civile. E quindi questo è sicuramente un problema. Però secondo me dobbiamo tenere sempre ben presente che quello a cui stiamo assistendo è un disegno politico che molto poco a che fare con l'essere ebreo per sé. Quindi è un post-nazionismo e questo ci consente anche, come dire, in qualche modo di difenderci dall'accusa che ci viene continuamente rivolta di essere antisemiti quando critichiamo il governo israeliano. noi stiamo criticando un tipo di politica, ma stiamo cercando di criticare le persone. Questo solo per fornire degli elementi magari in più, anche per uscirne vivi dai dibattiti che magari in questo periodo si possono sviluppare. Mi taccio, devo anche lasciarmi purtroppo, ragazzi. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, grazie per l'invito e grazie alle ragazze del progetto Palestina, è stato bello risentirvi. Ciao Cecilia, grazie. Ciao.